Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, essendo venerdì, come molti di voi già sanno, ci sarà anche la poco invidiabile classifica degli sprechi della settimana. Devo dire che oggi rischiavamo di renderla ipertrofica, perché tra quello che è successo a Pompei, e tra poco ne parleremo, e poi anche la conferenza stampa del sindaco di Roma Marino sulla vicenda ATAC, di cui noi modestamente ci stiamo occupando da mesi, beh, insomma, oggi rischiamo veramente di diventare ipertrofici. In realtà c'è dell'altro, ci sono anche le spese di Palazzo Chigi che scendono per la prima volta sotto il miliardo, ma poi ve le racconteremo, della Camera dei Deputati, scusatemi, mentre c'è il caso dei dirigenti di Palazzo Chigi. Con calma e al tempo, nel frattempo i mercati finanziari hanno preso la via del ribasso dopo dei dati americani che sono arrivati a sorpresa, visto che da giorni che commentiamo dati americani tutti estremamente positivi. Ieri era il dato sulle vendite di case già esistenti a record dagli anni 70, se non ricordo male. Invece oggi c'è un dato che vede le vendite di case nuove negli Stati Uniti a sorpresa calare e andare ai minimi da 7 mesi a questa parte, meno 7% quasi a giugno. La borsa si è raffreddata, il Dow Jones perde lo 0,40%, Parigi meno 0,50%, Francoforte meno 1,21%, Londra meno 1%, Milano fa meglio delle altre, nel senso che perde lo 0,36%, con Azimut che fa il meno 4,20%, ST Microelectronics meno 2,40%, Saipem meno 2,20%, come UbiBanca, Fiat Chrysler meno 2%, 1,5% lo perdono sia Monte dei Paschi che la Popolare Emilia Romagna. Ma oggi faremo anche, visto che venerdì, un punto, è l'ultima settimana, è l'ultima puntata prima della pausa estiva in cui Focus Economia termina alle 18.30. Il programma non si ferma mai da 15 anni a questa parte, per cui ci sarà anche tutte le prossime settimane con un orario estivo, cioè terminerà alle 18 fino al, diciamo, al 28 agosto. Venerdì, mi sembra che sia venerdì 28 agosto, comunque fino all'ultimo venerdì di agosto. Dicevo, ci occuperemo anche di fare il punto dello scenario borsistico. C'è un vecchio detto degli operatori finanziari della City che dice sell in May and go away, cioè vendi a maggio e vai in vacanza. Siamo arrivati a luglio, però gli scenari sui mercati azionari saranno oggetto della seconda parte del programma. Come sempre, accanto ai 5 casi di sprechi, avremo anche l'imprenditore per dare un po' un'iniezione di fiducia e anche per parlare a chi invece di piangersi addosso accetta la sfida. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Dei dati americani abbiamo già detto, dall'Europa arriva invece un indice PMI sull'attività manifatturiera dei servizi che è sceso leggermente nel mese di luglio. È sceso invece in maniera significativa quello tedesco, da 53,5 a 51,5. Pesa il calo delle esportazioni della Germania. Per quello che riguarda invece l'Italia, lo spread è ancora in lieve calo a 115,9 punti. Il BTP a 10 anni rende l'1,88%. E venendo invece ai dati sulle retribuzioni, oggi l'Istat diffuso i dati sulle retribuzioni orarie del mese di giugno, più 1,1%, salgono nel privato dell'1,5%, stop nel pubblico invece per il blocco dei contratti. Oggi tra l'altro l'IFEL, che è l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale dell'ANCI, cioè dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ha detto che come effetto della ristrutturazione della spesa per il personale operata dai comuni, Il costo medio di un dipendente comunale ammonta oggi a 37.000 euro contro i 54.000 euro nelle regioni, i 44.000 euro nei ministeri, i 41.000 euro nelle province. C'è una notizia positiva invece, vedo delle nuovi vedo dei nuovi, delle nuove agenzie sull'ATAC, adesso ve la racconteremo. Comunque, dicevo, c'è una buona notizia per quello che riguarda l'anagrafe delle imprese italiane. Il barometro, chiamiamolo così, è in lieve rialzo, nel senso che nel secondo trimestre del 2015, tra aprile e giugno, sono nate 97.811 nuove attività. Il dato è di Unioncamere, quindi le Camere di Commercio italiane, mentre hanno chiuso in 59.831. Ce ne sono 38.000 quindi in attivo, come un saldo positivo di 38.000 attività. E questo, ripeto, è un buon dato. Invece, le compravendite immobiliari sono tornate a essere in calo e diminuiscono nei primi tre mesi dell'anno del 3,6% come numero di compravendite nel settore immobiliare, diminuiscono, dicevo, del 3,6% in tutti i comparti, sia immobili a uso economico che abitazioni a uso privato. Da segnalare come il mondo delle costruzioni alzi la posta, è un'iniziativa di Federcostruzioni, vuole rilanciare il Made in Italy che c'è dentro il mondo delle costruzioni, quindi in uno dei settori più colpiti dalla crisi economica, quello dell'edilizia, e quindi individuare e valorizzare norme tecniche in grado di dare evidenza al Made in Italy nelle costruzioni, attraverso anche la partnership con l'ente nazionale di normazione. E poi l'idea di un progetto che permetterà a Federcostruzioni di segnalare all'autorità garante della concorrenza del mercato tutte quelle tendenze che limitano la trasparenza e la concorrenza nel mercato delle costruzioni, favorendo rendite immotivate e la corruzione. Queste due linee strategiche le ha presentate il presidente di Federcostruzioni Rudy Girardi, anche alla presenza della GCM, del presidente della GCM Giovanni Pitruzzella. La vera buona notizia di oggi riguarda la firma a Palazzo Chigi dell'accordo tra Whirlpool e sindacati e governo sul piano industriale. Già vi hanno anticipato la notizia nei nostri GR24. Sostanzialmente la compagnia Whirlpool, che nell'ottobre del 2014 acquisì la Indesit, ha preso l'impegno formale a non licenziare fino al 2018 e ha ritirato la dichiarazione di oltre 2.000 esuberi, quella che aveva creato la vicenda Whirlpool. Tra l'altro ha previsto investimenti e interventi per oltre 500 milioni di euro in 4 anni, incentivi all'esodo e anche i trasferimenti in altri stabilimenti. A Carinaro, in provincia di Caserta, sarà insediato il polo europeo ricambi accessori e il magazzino di None, in provincia di Torino, sarà ceduto in continuità alla piemontese Mole Logistica. Poi c'è il sito di Teverola, provincia di Caserta, rilevato, era stato chiuso la Indesit, rilevato dalla Whirlpool, ha messo a disposizione 2 milioni la Whirlpool per far ripartire la catena di montaggio e trovare, a condizione di poter trovare un partner industriale. È lo stesso schema che la Whirlpool ha applicato a Trento. A Napoli si produrrà una nuova gamma di lavatrici a carica frontale rivolta al mercato extraeuropeo. Il presidente del Consiglio Renzi dice: Whirlpool missione compiuta, l'ho scritto su Twitter. Il ministro Guidi dice: un accordo importante, il gruppo è più forte, ha ricordato appunto i 523 milioni di euro di investimenti in 4 anni promessi dalla stessa Whirlpool. L'acquisizione da parte di Whirlpool rispetto a Indesit ha trasferito, diciamo, quegli aspetti di quel piano che evidentemente però avevano dei punti di debolezza se guardavamo all'azienda Indesit a sé stante. Quindi oggi con questa integrazione nasce un gruppo molto più forte, un gruppo di dimensioni assolutamente rilevanti nel panorama non solo europeo ma direi mondiale, e questo nuovo gruppo, che esce naturalmente rafforzato dalla fusione di queste due aziende, vede nell'Italia una piattaforma sia produttiva che di ricerca e sviluppo fondamentale e strategica nella sua strategia di sviluppo e di crescita per i prossimi anni. L'azienda che rispetto all'impostazione iniziale ha integrato e migliorato il piano proprio su quei punti per i quali noi, naturalmente io in primis, avevo dichiarato insomma che erano diciamo parti del piano che come governo non potevamo accettare. Quindi l'azienda ha dimostrato una grande attenzione, una grande sensibilità a quello che il governo chiedeva, a quello che naturalmente i sindacati e i lavoratori chiedevano, e ha corretto e migliorato e integrato il piano in quelle parti, senza pregiudicare gli aspetti positivi che erano quelli degli investimenti, che addirittura escono aumentati rispetto all'impostazione iniziale. E sempre sull'accordo, il numero uno di Whirlpool Italia, Davide Castiglioni, amministratore delegato di Whirlpool, che ha detto: abbiamo messo, dopo questo accordo, delle risorse mai viste nel passato. Oggi abbiamo siglato un piano industriale con la condivisione, con un'ampia condivisione e anche con il supporto e l'aiuto di tutti. In particolare vorrei quindi ringraziare sicuramente il governo, che ha saputo condurre la discussione sempre verso la ricerca di soluzioni condivise, e anche le parti sindacali, perché siamo sempre riusciti a condurre una trattativa molto trasparente e costruttiva. Questo è un grande piano per l'Italia. Grazie a questo piano verranno fatti investimenti superiori al mezzo a 500 milioni di euro nei prossimi 4 anni, quindi Whirlpool ha messo in campo degli investimenti e delle risorse mai viste nel passato, e questo consentirà di rilanciare l'Italia al centro delle strategie di Whirlpool in tutta Europa. E infatti dall'Italia che Whirlpool guiderà una regione che conta più di 25.000 dipendenti, che fattura più di 5 miliardi di euro. Siamo pronti a partire, siamo pronti a creare le fabbriche moderne che guardano il futuro, siamo pronti a investire sulla ricerca e sviluppo. Il 75% degli investimenti europei è fatto in Italia. Siamo pronti a guardare avanti per crescere, a far leva e investire sulle nostre risorse, sulle innovazioni dei nostri prodotti. Soddisfatto dell'accordo anche il segretario generale della FIOM, Maurizio Landini. Sentiamo la margine sempre della firma dell'accordo su Whirlpool. Il giudizio dell'accordo mi sembra un ottimo accordo. Del resto, quando un accordo di questa natura, con 2 mesi di mobilitazione, vede il 90% dei lavoratori partecipare al voto e più dell'80% approvare l'accordo, sfido qualsiasi forza politica ad avere un consenso di questa natura su una vertenza così complicata, e quindi vuol dire che c'è stato un rapporto corretto, vuol dire che quando c'è la democrazia i lavoratori votano, anche diverse idee tra i sindacati si risolvono, e soprattutto penso che bisogna valorizzare un altro punto: se Caserta non è chiusa è perché a un certo punto siamo stati capaci noi di proporre all'azienda un bilanciamento delle produzioni, che detto in italiano ha significato che produzioni che si facevano a Varese, a Fabriano, sono state spostate a Caserta per non chiuderlo. Quindi c'è stato anche un atto di solidarietà interna tra i lavoratori, che hanno portato a questo risultato e alla fine hanno portato ad investimenti molto forti anche in Campania, e hanno, su questo credo ci sia un'indicazione anche nei confronti del governo, per fare in modo che tutti quegli investimenti siano fatti e anche il pezzo di reindustrializzazione della Campania venga fino in fondo realizzato. Una buona notizia comunque quella della Whirlpool: anche il governatore della regione Lombardia, Maroni, visto che per quello che riguarda la vicenda Whirlpool ha detto Maroni: siamo molto soddisfatti, anche perché come regione abbiamo contribuito con un accordo con la Whirlpool a mettere a disposizione 2 milioni di euro per finanziare i piani di sviluppo per l'innovazione. Concludiamo con un'altra buona notizia, visto che poi ci tocca parlare di ATAC, del sindaco Marino e della top 5 della classifica poco invidiabile degli sprechi della settimana. dicevo, sì, sui condizionatori, la tassa sui condizionatori l'abbiamo detto, abbiamo chiarito ieri, lo dico a chi ci sta scrivendo, che si trattava di un'inesattezza dei consumatori, di Federconsumatori Adusbef, l'abbiamo corretta ieri in diretta. Ma dicevo, l'altra buona notizia, se vogliamo vederla come tale, è l'inaugurazione di un nuovo tratto calabro-lucano della A3, la mitica Salerno-Reggio Calabria. Ora, invito Del Rio a un po' di prudenza, perché dire, come ha fatto oggi, la Salerno-Reggio Calabria non è più un incubo, ma diventa un segnale di speranza. Faccio notare che fu inaugurata negli anni 60, è lunga 443 chilometri, mancano ancora 43 chilometri, costava 140 milioni di lire per chilometro quando è stata concepita, adesso quando sarà completata si parla di altri 12 anni, ci vorranno altri 10 miliardi di euro, ma speriamo di sbagliarci, fatto sta che... Però dico, è vero che hanno inaugurato un nuovo tratto, ed è stato anche il tratto che conduce sul viadotto Italia. Il tratto, per la precisione, è quello compreso tra la galleria del Fossino e lo svincolo di Laino Borgo. Cioè, questa, cioè, penso che sia l'autostrada più raccontata al mondo, perché ne raccontiamo ogni apertura di uno svincolo, ogni viadotto, ogni area di sosta. Ma ve lo ricordate il mitico Ciucci, che è l'ex presidente dell'ANAS, nonché direttore generale, che si era autoliquidato, quando ci disse nel 2013, l'anno prossimo, cioè 2014, concludiamo la Salerno-Reggio Calabria. Comunque, la buona notizia è che il tratto inaugurato, che conduce sul viadotto Italia, è stato dissequestrato dalla magistratura dopo il crollo che si è verificato il 2 marzo scorso e che ha provocato la morte di un operaio rumeno. Già da stasera, secondo l'ANAS, sarà riaperto il viadotto Italia, appunto chiuso lo scorso 2 marzo. Adesso andiamo verso la classifica e partiamo dall'Atac, che è un tale casino, è una tale vicenda che va fuori dalla classifica. Però vi ricordavo prima dei dati diffusi oggi dall'Istituto di ricerca dell'ANCI, e quindi dei comuni italiani, su qual è stato l'impatto della spending review sui salari dei dipendenti, a seconda che siano comunali, ministeriali, regionali o provinciali. Su questo e su questi effetti della spending review si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore. La firma oggi, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, la firma oggi è del vice direttore Alessandro Platerotti. Oltre i limiti della luce c'è la tua infinita creatività. Con il nuovo smartphone Huawei P8 fotografi anche con pochissima luce. Huawei, make it possible. Vi presenta... I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Più sentiamo parlare di riduzione delle tasse, più il tema di tagli e risparmi di spesa diventa lo spartiacque che darà la misura del successo o meno di questa promessa. In inglese si chiama spending review, revisione della spesa, e tanto per dare un'idea, l'anno prossimo dovrà garantire risparmi per 10 miliardi di euro che, se verranno a mancare, faranno scattare le clausole di salvaguardia, ovvero nuovi aumenti di tasse a partire dall'IVA. La notizia però è che qualcosa sembra muoversi. Ieri è stato avviato un nuovo sistema più efficiente per l'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche. Un sistema che si basa sull'attivazione di 34 centrali di acquisto e che regolerà gli acquisti dei ministeri e anche quelli delle regioni, sanità compresa. In più, il governo sta ragionando su come estendere questo meccanismo anche al mondo dei comuni. La cosa importante è che questi 34 centri di acquisto sostituiscono le altre 32.000 stazioni appaltanti che finora facevano appunto gli acquisti per conto delle pubbliche amministrazioni. Ci sono esempi che ricorrono quando si parla di sprechi. Le siringhe e le garze che acquistate in alcune regioni costano pochi centesimi, e mentre in altre costano fino a 10 volte di più. Ecco, siamo solo agli inizi, quindi serve cautela. Ma il nuovo sistema delle 34 centrali di acquisto sembra davvero che dovrebbe aiutarci a eliminare gli sprechi, partendo proprio dai risparmi sugli acquisti. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe, straordinario tutte le sere, sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare con il mio superpotere, sono un eroe. Allora, iniziamo una pagina che è più lunga del previsto. Intanto chiedo scusa sia a Salvatore Padula che a Alessandro Platerotti. Non so se qualcuno dei due si sia offeso, o tutti e due, o nessuno dei due. Chiaramente i 100 secondi erano di Salvatore Padula. Prima di arrivare alla classifica, però, occupiamoci dell'ATAC. Dell'ATAC ci siamo occupati tantissimo in questi mesi, perché è un'azienda che ha accumulato un piccolissimo disavanzo di bilancio, praticamente dal 2008 il rosso è arrivato a 1 miliardo di euro come perdite accumulate, quest'anno pure, l'anno scorso 141 milioni di deficit. L'ATAC è l'azienda municipalizzata dei trasporti di Roma, che ha fatto esasperare anche i cittadini, perché quando il sindaco Marino, che ripeto avrà molte colpe ma questa volta aveva ragione, ha introdotto l'obbligo di strisciare i badge per gli autisti della metropolitana, per gli autisti, i macchinisti della metropolitana, scusatemi, facendo notare che a Milano un macchinista della metropolitana lavorava 1150 ore l'anno, a Roma solo 720 e voleva portare a 950 le ore, i macchinisti si sono ribellati con lo sciopero bianco, rallentando la corsa dei treni e via così. Allora, chiaramente non c'è il senso del dramma. Che cosa è successo oggi? Al di là del fatto che potremmo parlare dell'ATAC anche per un'altra vicenda, perché l'ATAC sta cercando inspiegabilmente di ristrutturare due ex rimesse a San Paolo e sulla Tuscolana in stato di assoluto degrado per ospitare 120 postazioni lavorative, nonostante abbia tante altre strutture a disposizione, il deposito graniti con i fabbricati terminati da pochi mesi, che hanno tutte le tecnologie, le certificazioni di sicurezza, uno dei due palazzi è libero, ma per ora l'azienda vuole solo trasferirvi l'archivio, anche se la capienza è perfetta per le 120 postazioni di lavoro. Insomma, non si capisce come venga gestita Statac, male sicuramente. Allora, il sindaco Marino ha detto oggi, in una conferenza campionaggio sull'ATAC, ha detto: attenzione, in prota l'assessore dei trasporti, che aveva già da tempo pronunciato di dimettersi, si dimetta se necessario, occorre cambiare rotta. In prota poco fa ha risposto: attenzione, non capisco il sindaco, atteggiamento incomprensibile, se vuole commissariare il consiglio di amministrazione l'azienda non riuscirà a approvare il bilancio. Non risulta che non riesca comunque a approvare il bilancio, perché deve firmare un nuovo contratto di servizio, ma soprattutto deve metterci altri 40 milioni di euro il Comune di Roma, perché nei primi 4 mesi del 2015 ci sono già 58 milioni di euro di passivo. Marino ha chiesto durante la conferenza stampa di mandare via il Consiglio di amministrazione dell'ATAC e i vertici responsabili dei disagi. Siamo davanti a una situazione drammatica per i trasporti urbani di Roma, da un punto di vista della qualità del servizio e da un punto di vista dei conti di ATAC. Per questo motivo credo che sia necessario un immediato cambiamento di rotta e anche l'ammissione dell'insufficienza del lavoro fatto. Per questo chiedo all'assessore in prota, che ringrazio per il suo impegno, di formalizzare le dimissioni che aveva già annunziato nelle scorse settimane. E sempre per questo ho deciso oggi di cambiare il consiglio di amministrazione di ATAC, dando anche mandato al direttore generale Micheli, giunto da pochissimo in azienda e forte di una grande esperienza, di rinnovare profondamente il management aziendale, allontanando tutti i dirigenti responsabili delle inefficienze e che non siano all'altezza della sfida del trasporto pubblico della capitale d'Italia. Perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe. Magari anche alcuni macchinisti della metropolitana, no? Già, a me non ne frega nulla se sono macchinisti della metropolitana, cioè voglio dire, non è che metti in atto uno sciopero bianco perché ti si chiede di lavorare, di timbrare il badge, di arrivare a 950 ore, cosa dovrebbero fare quelli di Milano allora? Su, per favore. Comunque, il sindaco Marino dice che entro il 30 settembre 2015 c'è l'impegno della Regione Lazio di trasferire al comune 301 milioni di euro come pagamento di vecchi contributi negati dai governi di destra negli scorsi anni per i trasporti, e poi l'apertura ai privati. Ho deciso assieme al presidente Zingaretti, dice Marino, di aprire l'ATAC ai privati. Detta così non si capisce se è un'opportunità o una minaccia per i privati. Comunque, sentiamo. Ho deciso, sempre insieme al presidente Zingaretti, che da oggi comune, regione e ATAC si impegnano a cercare un partner industriale mantenendo nelle mani pubbliche la maggioranza del capitale. Per questo abbiamo dato mandato all'azienda e ai nostri tecnici di studiare un piano industriale reale e forte sulla base del quale lanciare la nostra gara. In questo modo anticipiamo ad adesso, a oggi, l'avvio di quel processo voluto dalle leggi europee e nazionali che impone di non gestire più i servizi con aziende in-house a partire dal 2019, e noi lo anticipiamo al 2015. L'unica alternativa, e ne abbiamo discusso con il presidente Zingaretti, era quella di chiudere ATAC portando oggi i libri in tribunale e avviando una procedura di fallimento che avrebbe causato una profonda insicurezza per i posti di lavoro dei nostri dipendenti, avrebbe messo radicalmente a rischio il servizio. Staremo a vedere. Certo che la situazione di ATAC è strana, ci sono 11.800 stipendi da pagare, 11.811 stipendi da pagare, 1.000 in più che in Alitalia, e non si riescono a trovare i macchinisti o delle volte gli autisti per gli autobus, tant'è che continuano a diminuire le percorrenze chilometriche, guasti per mancanza di manutenzione, insomma non si capisce cosa facciano tutti gli altri. Comunque, allora, per non deprimermi, meteo, pubblicità, poi partiamo con la classifica e lì c'è veramente da incavolarsi oggi, e poi invece il caso virtuoso dell'imprenditore, poi passiamo anche agli scenari macroeconomici sui mercati finanziari. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Alcuni dicono, beh, forse è meglio i libri in tribunale, in effetti. Meteo. Focus Economia. La classifica della settimana. Oh, al di là dell'ATAC, che da sola merita una classifica vista la situazione, iniziamo con la poco invidiabile classifica. Al quinto, devo andare veloce perché oggi l'ATAC ci ha rubato parte dello spazio. Al quinto posto il giacimento, il petrolio italiano, l'oro italiano. Su questa retorica insopportabile sul turismo, che sarebbe in effetti il nostro giacimento, la nostra miniera d'oro, se lo sapessimo estrarre. Noi facciamo anche, come Sole 24 Ore, gli stati generali della cultura per ragionare sul patrimonio culturale italiano, ma come cavolo si fa poi a ragionare di un patrimonio culturale che in alcune aree del paese, quelle dove è meno sfruttato, e mi riferisco al sud, si comportano in questo modo. Allora, partiamo dalla notizia, andiamo in ordine diciamo crescente. Allora, il museo di Capodimonte, in questi giorni l'aria è irrespirabile, perché c'è caldo, e gli impiegati della sovrintendenza fanno notare che l'impianto per l'aria condizionata è rotto dal 19 giugno. Ma scusate, ma quanto cavolo ci vuole a cambiare un impianto dell'aria condizionata al museo di Capodimonte? L'eccessiva temperatura delle stanze, ma va là, che si accompagna alla mancanza di personale, rende impossibile il tour completo. Il secondo e terzo piano sono così chiusi per ragioni di sicurezza. L'aria condizionata non riesce a refrigerare comunque il primo piano e le enormi stanze e corridoi, e si apre qualche finestra, si spalanca l'atrio, ma il calore continua a essere insopportabile. Già le estati scorse lo stesso problema, ma qualcuno paga? Al sovrintendente a Napoli, qualcuno paga? Ci sarà un direttore del museo di Capodimonte? Mandatelo via, è incapace, se non sa cambiare l'aria condizionata non sarà colpa sua, la burocrazia, ho capito, ma vattene, se non riesci a cambiare neanche l'aria condizionata che ci stai a fare? Comunque, la cosa strana è che il museo però resta aperto ogni sabato sera fino a mezzanotte. Allora dicevano, ma scusate, invece che pagare coi soldi extra l'apertura del sabato sera fino a mezzanotte, che è una buona cosa, ma se ti manca l'aria condizionata, o apri solo la sera fino a mezzanotte, tutti i giorni, sperando nel refolo, nel vento, in quello che a Roma si chiama Ponentino, oppure non apri il sabato sera e usi questi soldi per comprare e sistemare l'aria condizionata, magari cambiare i filtri, i liquidi, non so, qualche consiglio possiamo darlo. E lì siamo a Capodimonte. Poi però c'è anche il Salento, il mitico Salento che tanto piace, benissimo, bellissima area. Area geografica, Massimo D'Alema, che all'epoca, quando il suo delfino era Flavio Fasano, ex senatore, e insomma si decise di lanciare la metropolitana leggera su rotaia a Gallipoli, una bellissima iniziativa che ha compiuto 20 anni ma ha vissuto solo per poche settimane. Quattro stazioni ferroviarie costate 200 milioni di lire allora, e i soldi sono usciti dalle ferrovie del sud-est, e da anni giacciono nel degrado. Le città del Salento sono Gallipoli in Gallipoli, Gallipoli era diventata, diciamo, il potere politico. C'è stato un periodo durante il governo D'Alema che Gallipoli era il centro del potere politico di questo paese. Allora, Gallipoli intasata dal traffico, ovviamente la metropolitana leggera non va. E praticamente sembrava lo strumento capace di dare risposta alle esigenze di spostamento veloce dal centro alle periferie. Pensate che è fatta anche bene, gran parte dei binari passa in gallerie sotterranee che fanno riemergere i treni all'altezza della stazione centrale, collegamenti rapidi fino alle spiagge, dall'estrema periferia al porto, il centro storico, tutte palle. A 20 anni ha funzionato poche settimane. Ma sempre al quinto posto sul turismo, abbiamo dovuto accorpare un po' le notizie, oggi è Pompei. Io chiedo veramente ai sindacati che rappresentano i lavoratori di Pompei, e quindi FP, CISL, Filpe e UNSA, di vergognarsi, se questo termine ha ancora ragione. Perché? Stamattina, senza preavviso, cancelli chiusi davanti agli scavi di Pompei a causa di un'assemblea dei sindacati che dalle 9 alle 11 si sarebbe dovuto concludere appunto in tarda mattinata. Turisti e tour operator non avvisati, 2000 persone nell'arco di poche ore si sono formate davanti ai cancelli di Pompei. È dovuto il sovrintendente Massimo Osanna ha aperto lui stesso i cancelli alle 10.30, contrattando singolarmente con i funzionari della sovrintendenza la garanzia della custodia delle domus. Si era formata stamattina una fila di oltre 2000 turisti e botteghini, con persone anche parecchio arrabbiate, e quindi lui ha aperto i cancelli. Ha detto che il comportamento è irrispettoso nei confronti di centinaia di turisti, è stato un colpo basso anche perché avevano cercato di utilizzare il personale dell'ALES, alcuni custodi avevano disertato l'assemblea sindacale, sembrava ce la potessero fare aprire. Ma la cosa che mi fa più incavolare è che poco dopo si è conclusa la protesta dei sindacati, e cosa hanno deciso i sindacati? Di lavorare, lo dicono come provocazione, i lavoratori della sovrintendenza speciale di Pompei, Ercolano e Stabia hanno adottato la decisione di lavorare a costi inferiori rispetto alle maestranze della SCABEC, che è una società in house della regione Campania, a cui sarebbero state affidate le aperture straordinarie notturne, che era il motivo del contendere, no? Se ben capisco. Quindi tu hai bloccato 2000 passa persone, facendo una figura del cavolo, per poi dire che accetti di lavorare a costi inferiori. Ma se ci fosse un paese normale, tu gli dovresti rispondere: no, guardate, non accettate, non lavorate più, non lavorate più. Adesso, per carità, senza violare il diritto allo sciopero, ma visto che il ministro Franceschini dice il danno è incalcolabile, bene, pagheranno anche questi lavoratori per poi decidere che accettano di lavorare anche a paghe inferiori pur di non affidare alla SCABEC le aperture straordinarie notturne? Ma li vogliamo mandare a casa ogni tanto? No. Quarto posto, devo andare, mamma mia, c'è già il traffico. Allora, traffico e poi cerco di fare il quarto, terzo, il primo posto in rapida sequenza, traffico. Focus Economia. Andiamo al quarto posto, oggi andiamo lunghi, andiamo all'università di Chieti e Pescara. Quando io dico di eliminare il valore legale del titolo di studio, così mettiamo in concorrenza vera le università e quelle che non servono, vabbè, almeno faranno pagare rette più basse. Allora, il direttore generale dell'università di Chieti e Pescara, Filippo Del Vecchio, è sotto processo per truffa e abuso d'ufficio per come ha diretto l'università. Doveva avvertire l'università di essere imputata in un processo. Quando è stato nominato non sapeva, nel 2012 non sapeva di essere indagato, però quando ha firmato la proroga per il suo incarico era già stato avvertito. Ma adesso il senato accademico dell'università di Chieti e Pescara, cioè nel mondo c'è Harvard, c'è Berkeley, Oxford e poi Chieti e Pescara, e il senato accademico vuole prorogare nuovamente il suo incarico. Allora, chi se ne frega se in questi mesi l'università di Chieti e Pescara ha dovuto chiudere due piani per il crollo di un soffitto, gli studenti non possono usare il centro sportivo, sono stati segnalati più volte topi nelle aule dei lettori madrelingua, topi, i dipendenti d'agosto non incassano più il salario accessorio di 300 euro mensili, da gennaio hanno sospeso l'erogazione dei buoni pasto. E chi se ne, tra l'altro, in un'università in cui tra il 2001 e il 2013 alcuni dipendenti hanno ricevuto un'indennità che, secondo il Del Vecchio, appunto Filippo Del Vecchio, non gli spettava. C'è un elenco di 113 coinvolti. Stranamente, in questo elenco non appare tale Marina Marino, titolare del segretariato generale, nonché della segreteria del rettore e del direttore generale, nonché del cerimoniale e delle manifestazioni ufficiali. Io vorrei sapere qual è il cerimoniale. Vabbè. Nonché di un'altra trentina di incarichi, è perfino l'incarico di realizzare videoclip ed essere spot per l'Ateneo. Io capisco che le donne sono multitasking, ma Marina Marino è multitasking. Ora, tutti questi incarichi, sono più di 30, gliela ha dati Del Vecchio da quando ha preso servizio il direttore generale. Infatti lei non era prima nella lista, poi è uscita da questa lista di chi ha avuto l'indennità senza che gli spettasse. Tra l'altro questa Marina Marino dimostra che in Italia si può far carriera, che c'è un ascensore sociale velocissimo, perché si è laureata nel 2014, ha fatto 4 esami e la tesi in pochissimi giorni. Io dico, cioè, ma invitatela da qualche parte, in un concorso a premi. E tra l'altro c'è anche la procura di Chieti che sta indagando su questo. Ed è scomparsa dalla lista. C'è chi ha provato a far notare queste cose. Ferruccio Capalbo, il presidente del revisore dei conti, ha detto: guardate che c'è un insieme di irregolarità. Chi se ne frega, nel 2013, nonostante questo, l'università il rendiconto lo ha approvato, e nonostante il vecchio collegio di revisori avesse denunciato che il saldo della cassa e quello della banca non coincidevano, c'era un buco di 28 milioni e mezzo. Ma pensate che una funzionaria dell'Ateneo, Anna Maria Imperio, aveva inviato al direttore generale Del Vecchio, io voglio dirlo per bene sto nome, si chiama Filippo Del Vecchio, direttore generale dell'università di Chieti e Pescara, dicendogli: non voglio firmare un provvedimento che è contrario al regolamento. Il provvedimento viene invece comunque firmato con la firma dell'Imperio in calce. A questo punto la funzionaria dice Del Vecchio: rettifica, leva la mia firma. Cosa fa il direttore Del Vecchio? Filippo Del Vecchio le dà una sanzione disciplinare e la vicenda finisce in tribunale. Giustamente vince ovviamente Anna Maria Imperio, che viene risarcita per 3.000 euro. Ce la faremo mai oggi? Terzo posto di questa classifica. Qui andiamo più veloci, andiamo a Mrs. Pesce. Mogherini, dove sei? Batti un colpo. Ma non è di questo che vogliamo parlare. Gli inglesi sono strani, si sono accorti dei costi che ha il ministro degli esteri europeo solo quando non è più loro, non c'è più Lady Ashton, ma tant'è. Allora, noi sappiamo che il Parlamento europeo costa una marea, perché tiene in piedi due sedi, Bruxelles e Strasburgo, 200 milioni di euro l'anno, e per ogni riunione a Strasburgo si mettono in marcia 5.000 addetti ai lavori, trasportano 20.000 tonnellate di documenti. Però però il servizio diplomatico dell'Unione Europea ha ordinato recentemente un servizio di piatti in porcellana in stile imperiale, bicchieri di cristallo, posate d'argento, visto che è una cosa un po' più classica, diciamo, quasi una cosa da valzer, da Strauss, da ballo delle debuttanti, non lo so, perché ha ordinato un servizio di piatti in porcellana in stile imperiale, bicchieri di cristallo, posate d'argento per ricevimenti a Bruxelles e nelle 140 rappresentanze all'estero, servizi per 3.360 persone al modico costo di 3 milioni di euro. Allora, ci sono candelabri, ceramiche dorate cinesi, migliaia di bicchieri per whisky, brandy, champagne, insalatiere, vassoi d'argento e altro ancora. Secondo il Daily Telegraph, i 3 milioni spesi corrispondono a 10 volte il costo dell'analogo servizio per la Casa Bianca. Tra l'altro, Federica Mogherini ha, come aveva Lady Ashton, uno staff a sua disposizione di 3.400 persone, un budget di 793 milioni di euro, con sedi dovunque, anche alle Seychelles. Ma che cavolo serve la sede dell'Unione Europea alle Seychelles? In Australia, in Canada, in Kazakistan. Il portavoce della Mogherini dice: attenzione, il servizio diplomatico non ha ordinato servizi di piatti, ha lanciato una gara d'appalto per riacquistare i piatti rotti o che si dovessero rompere e per acquistare servizi per nuove delegazioni. I 3 milioni sono un tetto massimo. Vabbè, se è così siamo tutti più sereni. Allora, andiamo alle buone notizie. Per la prima volta, ma ne manteniamo questa base, la Camera dei Deputati costerà una cifra inferiore al miliardo, siamo al secondo posto, al miliardo di euro. La spesa prevista per la Camera dei Deputati nel 2015 infatti si riduce di 50 milioni, meno 4,87%, e così costerà solo 986 milioni di euro. Però, a me sembrano sempre tanti, però i vitalizi e le pensioni di ex deputati e dipendenti costano 395 milioni di euro, sono il 40% dell'intera spesa, andrebbero eliminati e basta, e aumentano del 5% i costi. Pensate che i vitalizi dei parlamentari pesano per 86 milioni di euro l'anno. Poi Montecitorio continua a pagare le spese dei viaggi degli ex onorevoli, 900 mila euro l'anno. Poi spese per l'informatica 15 milioni, formazione linguistica e informatica degli onorevoli 300 mila euro l'anno, ma se la pagassero. 2 milioni e 800 mila euro per la produzione informatica di atti parlamentari, ma poi si spendono anche 5 milioni e 200 mila per la pubblicazione di atti parlamentari, cioè sia informatica che pubblicati. I pacchi smistati dagli onorevoli devono pesare un parecchio, perché costano 1.600.000 euro per il trasloco e facchinaggio, 6 milioni l'anno è il costo dei servizi di pulizia della Camera dei Deputati, pulizia esterna, quella interna è un'altra cosa. E poi nel 2015 i servizi di guardaroba hanno subito un'impennata, costano praticamente 150.000 euro, 50% in più in un solo anno. E poi 1.200.000 euro per allocazione dei depositi, e ancora, per quello che riguarda i pacchi smistati degli onorevoli. Focus Economia. Servizi d'avanguardia 100.000. Ah, ma avete sfumato? No, stavo leggendo la lista prima dell'interruzione di come spendiamo 986 milioni per la Camera dei Deputati. Ma arriviamo al primo. Siamo di nuovo in diretta con Focus Economia e con Sebastiano Barisoni. Il primo, oggi siamo un po' in ritardo con la classifica, perché tra l'ATAC in negativo e Whirlpool in positivo ci siamo allungati. Dicevo, siamo arrivati al primo punto, al primo posto, scusatemi, della classifica della settimana, o meglio della classifica degli sprechi, dei primi 5 sprechi della settimana. And the winner is... i dirigenti di Palazzo Chigi. Oh, la lista dei premi in busta paga dati ai più bravi, lo dico così ci prepariamo alla riforma della pubblica amministrazione, la legge Madia e tutti i 18 decreti attuativi che prevede. Ora, a Palazzo Chigi praticamente siamo un passo tra l'Accademia di Stoccolma, l'MIT di Boston e quant'altro, perché su 301 dirigenti, già che ci siano 301 dirigenti a Palazzo Chigi è tanta roba, ma dicevo, di cui 98 di prima fascia e 213 di seconda fascia hanno avuto il premio a Palazzo Chigi nel 2013, ultimo dato disponibile, il 97,7% dei dirigenti. Sono i premi dati ai più bravi, non è poca roba, perché si arriva fino a 34.600 euro di premio. 294 su 301 dirigenti. Io voglio una petizione per questi 7 dirigenti su 301 che non hanno preso il premio. Che cosa hanno fatto di male? Un po' di pietà e un po' di sano altruismo e anche così di coscienza, datelo anche agli altri 7, perché 294 su 301, datelo anche agli altri 7. Faccio notare che la Casa Bianca ha 474 dipendenti, ma nessuno si avvicina allo stipendio minimo, non quello coi premi, dei dirigenti di Palazzo Chigi, perché nonostante la sforbiciata di Renzi, il tetto di 240.000 euro, quello che viene più pagato a Washington si chiama quella Anita Decker Breckinridge, è il braccio destro di Barack Obama e guadagna 197.262,57 euro. Ed è il braccio destro, modestamente, del Presidente degli Stati Uniti, ma chi se ne frega. Da noi, praticamente, con lei, assieme a lei, guadagnano lo stesso stipendio altri 17 funzionari di altissimo livello della Casa Bianca, quindi ben sotto quello che prendono i nostri. Dunque, praticamente a Palazzo Chigi restano i dipendenti sono 1981, lo stipendio medio dei 301 dirigenti è di 203.000 euro lordi e può arrivare fino a 240.000. Male che la prossima settimana facciamo l'ultima classifica e poi per agosto non se ne parla fino a fine agosto. Allora ringrazio invece per averci raggiunto il collegamento Roberto Macina, Macina, buonasera, amministratore delegato e fondatore di Curami. Tutti li ho sbagliati oggi, beccassi uno. Curami. Allora, tra l'altro a Roma, visto che oggi abbiamo parlato dell'ATAC, mi fa particolarmente piacere. Che cosa fa Curami? Curami è un'app che permette alle persone di fare la fila, quella che quotidianamente facciamo negli uffici pubblici o nei negozi, tramite mobile. Quindi noi anziché prendere il famoso numeretto ed aspettare dei minuti in sala d'attesa, possiamo prendere questo famoso numeretto virtualmente e sapere in tempo reale quante persone abbiamo davanti, tutto grazie al nostro telefonino. Quindi di fatto Curami ci doppia il tempo. L'app l'avete già attivata, ce la vendete già? Sì, l'app è attiva ormai da 2 anni e mezzo e funziona in tutta Italia, in molte strutture sia pubbliche che private, soprattutto ospedaliere. E naturalmente ora il nostro lavoro è quello di portare la tecnologia in più punti possibili in Italia ma anche in Europa. Com'è nata l'idea e quando soprattutto? E l'idea nasce più o meno a fine 2010, diciamo da un'esigenza personale, perché ero un po' stufo di aspettare nella mia segreteria studenti per consegnare le mie tesi di laurea, quindi ero convintissimo ci fosse qualcosa di tecnologico, era un po' il boom delle app, che mi aiutasse in questo senso. Quindi ho cominciato a fare delle ricerche, ho visto che non c'era niente e quindi ho preso un po' la palla al balzo, visto che non ero molto contento del mio lavoro post laurea, e ho deciso così di buttarmi in quella che è diventato poi un business e un'azienda che oggi dà lavoro a molti ragazzi. Quanti ragazzi per la precisione? Oggi siamo 14. Oh, di cui assunti? Assunti siamo 8 e diciamo che a gennaio, anche sfruttando le nuove riforme, porteremo altri dipendenti nel nuovo anno. Bene, questo ci fa piacere. Quanto avete fatturato, l'ultimo fatturato che avete a disposizione? Sì, l'ultimo anno, quindi il 2014, è stato l'anno forse un po' di consolidamento a livello finanziario di Curami, sia perché abbiamo ricevuto un grosso finanziamento a livello di venture capital, ma soprattutto perché la tecnologia comincia a essere molto diffusa, quindi abbiamo fatturato circa 300.000 euro, anche se pensiamo di raddoppiare, almeno raddoppiare quest'anno. Tra l'altro voi siete stati selezionati nel 2013 come da quella che è la Bibbia dell'high tech americano, TechCrunch, fra le 40 startup italiane più promettenti, poi avete vinto anche il premio internazionale UK Italy Springboard per l'innovazione. A chi il servizio, se ben capito, non è solo per cioè per qualunque tipo di coda agli sportelli, non solo per un settore, giusto? Esatto, noi diciamo che lo scopo di curare. A chi l'avete venduto? E dalle compagnie telefoniche, nei negozi, a ospedali, a comuni, a stazioni, insomma la missione di Kurami è quella di essere più orizzontale possibile, quindi l'utente scarica Kurami e trova tutte le strutture grazie al quale Kurami non può fare la fila. Mi dica una cosa, chi vi ha finanziato e che problemi avete avuto nel far partire l'attività? Lo chiediamo sempre a tutti i nostri start-upper, come si chiamano in gergo, che utilizziamo, lo dico, intanto per raccontare anche un'Italia di gente che si rimbocca le maniche e sviluppa al nord, al centro e anche al sud un'iniziativa nuova, e poi perché dopo la carrellata, diciamo, della top 5 abbiamo bisogno anche di un po' di Prozac virtuale. Allora, chi vi ha finanziato e le difficoltà che avete incontrato? A livello finanziario ci ha aiutato quello che in gergo vengono chiamati incubatori di impresa, ovvero quei soggetti che aiutano ragazzi come noi a finanziare l'inizio di una nuova impresa. Poi piano piano ci siamo voluti e ingranditi, abbiamo avuto accesso a finanziatori più grandi come venture capital o fondi di business angels. I problemi avuti dal punto di vista di aziendale sono stati soprattutto quello di espansione, no? Perché la nostra è un'azienda B2B, ovvero fa business su un altro business, e quindi può capire che per tre ragazzi sotto i 30 anni andare a proporre questa soluzione innovativa a dirigenti della pubblica amministrazione all'inizio non è stato facile. E come abbiamo risolto, diciamo, questo problema? Partendo da un campo più vicino a noi, ovvero quello universitario, dove c'è una maggiore propensione al rischio e dove l'utenza, quindi quella degli studenti, è molto avvezza alla tecnologia. Grazie a questa soluzione trovata siamo riusciti a trovare la referenza tale da andare a proporre la nostra soluzione a clienti molto più grandi. Allora, in bocca al lupo a lei, quindi Roberto Macina, amministratore delegato e fondatore di Kurami, ai 18 suoi collaboratori, di cui 8, a 14 suoi collaboratori, di cui 8 dipendenti, sperando che aumentino e sperando che stabilizzi anche gli altri. Adesso il traffico, poi la borsa, ma soprattutto gli scenari sui mercati finanziari. A chi mi dice quanto lei è un buffone per come si arrabbia per le beghe paesane, adesso la chiudono pure. Guardi, lei compie due errori. Il primo, non sono beghe paesane, sono soldi di tutti i cittadini e sono inefficienze che poi complessivamente vanno a montare su quanto spendiamo. Se lo ricorda il calcolo fatto, ne abbiamo parlato a metà settimana dalla Confcommercio, su quanto costa, se i servizi pubblici fossero a livello della regione Lombardia avremmo 50 miliardi da investire per migliorare i servizi delle altre regioni e resterebbero 27 miliardi di spesa in meno. Sono tasse che lei paga. Secondo errore che fa, che non mi chiudono. Focus Economia resta in diretta come sempre anche ad agosto, si riduce nel palinsesto estivo dalla prossima settimana a un'ora. Traffico. Focus Economia. E 18 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia della settimana. A questo punto 349-238-6666 resta il numero per i vostri sms, poi c'è il sito di Radio 24, o meglio la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Parliamo di mercati, non tanto per quelli di oggi, meno 0,50 Milano e Parigi, mentre Londra perde l'1,13 e Francoforte l'1,40%, l'America sta perdendo mezzo punto percentuale. Dati a sorpresa brutti sulle vendite di nuove case in America hanno raffreddato il mercato. Cito i titoli: Ferragamo più 1,40, Moncler più 1, Atlantia più 0,80, Mediolanum più 0,70%, Enel più 0,60. Il fronte opposto è rappresentato invece da Azimut meno 4,16, ST Microelectronics meno 2,40%, e ancora su Azimut ci sono parecchi realizzi e anche su ST Microelectronics, che ieri ha fatto 7%. Poi debole UbiBanca meno 2,30, Saipem meno 2% come Fiat Chrysler, Monte dei Paschi meno 1,80%, CNH meno 1,60%, Banco Popolare meno 1,30%, l'1,20% lo hanno perso sia la Popolare Emilia Romagna che Telecom Italia. Tra i migliori e peggiori, Class Editori più 20%, EMS più 13,80%, il fronte opposto invece rappresentato da Eukedos meno 5,30%, Sogefi meno 5% e appunto Azimut. Ma al di là della giornata vorrei commentare con un nostro vecchio ospite, nel senso non dell'età, ma che ogni tanto torna a trovarci, mi riferisco a Giovanni Tamburi, che di lavoro investe su aziende quotate e non quotate, investe i risparmi di altri su aziende quotate e non quotate. Buonasera, mi sono legato da Tamburi Associati, lei è anche quotato come Tamburi e Associati. Buonasera Tamburi. Buonasera a tutti. Vorrei ragionare con lei su quelle che voi chiamate con un gergo insomma altisonante asset allocation, cioè dove metto i soldi in questo periodo, traduco io, perché abbiamo visto un petrolio debole, faccio un rapidissimo escursus, sotto i 49 dollari al barile, tra l'altro con prospettive, da quello che ci risulta, di un prezzo che non dovrebbe aumentare per via dell'ingresso anche del petrolio iraniano. Dalla metà del 2016 sono altro mezzo milione di barili al giorno. L'oro, lo raccontavamo questa settimana, scambiato a 1082 dollari l'oncia, ma insomma è arrivato al livello più basso dal febbraio del 2010, a quota 1077 dollari l'oncia proprio oggi. L'euro, che comunque è sempre sotto quota 1,1 in questo periodo, 1,09-1,08, e qualche preoccupazione non solo borsistica sulla Cina. L'indice diffuso oggi, PMI manifatturiero cinese a luglio, è finito ai minimi da 15 mesi a questa parte. Allora, e poi c'è la Russia, lasciamo stare la Grecia che ne abbiamo anche troppo parlato. Prospettive nel medio termine, Tamburi? Ma le prospettive secondo me restano discrete. È chiaro che con la galoppata che quasi tutti i mercati del mondo hanno fatto dall'inizio dell'anno ad oggi, malgrado le Grecie e le Russie e tutte queste belle cose di cui piace tanto parlare a tutti, anche perché suonano negativo e la gente si diverte più a parlare di negativo che di positivo, è chiaro che lo spazio quest'anno non è enorme. Però io vedo dei mercati azionari, in particolare europei, ancora in crescita verso la fine dell'anno, perché sono valutati meno dei mercati asiatici e dei mercati americani, perché c'è un flusso che continua ancora fortissimo di arrivi di soldi asiatici, americani e arabi sui mercati europei, per cui io resto personalmente positivo su questi mercati. Nonostante la Grecia, nonostante diciamo, possibili tensioni sul fronte ucraino e quindi russo, sì? Ma sì, ma ce lo siamo detti anche altre volte. Purtroppo perdere troppo tempo su queste Grecie, queste Ucraine, ha fatto distrarre tanta gente, forse ha fatto guadagnare qualcuno bravo sulla volatilità o su questa roba qui, ma il mercato dall'inizio dell'anno ha fatto un 20-25%, i titoli buoni hanno fatto dal 30-40%, per cui siamo in uno degli anni migliori della storia e ci stiamo ancora a preoccupare delle Grecie, delle Russie, delle Ucraine, eccetera, eccetera. Il mercato azionario europeo e in particolare italiano, che è rimasto un po' più indietro degli altri, vive degli utili delle proprie imprese. E Tamburi, gli utili sono tutti gli altri. Nessuno si preoccupa delle russe, nel senso, cioè, delle, no, non, delle russe, no, perché dico le russe, no, sicuramente non noi, né il programma che segue. Comunque andiamo avanti. Diceva, nonostante tutti questi elementi di tensione, da questo punto di vista il mercato azionario segna, l'ha dato chiaro, una crescita a due cifre oltre il 20%, e i titoli che meglio hanno performato arrivano anche al 30%. Domanda: che caratteristiche hanno questi titoli, visto che poi non possiamo fare i nomi, ma qualche caratteristica possiamo dare? Lei mi sembra molto poco preoccupato di un rallentamento cinese, come domanda. Preoccupato zero. Ma c'è qualcosa che la preoccupa, Tamburi? No, per capire, dal punto di vista finanziario, non nella sua vita personale, ma dal punto di vista finanziario e borsistico? Onestamente no, cioè queste telefonate che ci facciamo da qualche anno a questa parte, negli anni cattivi la vedevo più difficile e più complicata di altri, negli anni buoni, per cui negli ultimi due o tre mi pare che c'è stato poco da preoccuparsi, dopodiché è chiaro che ci saranno alzi, volatilità eccetera, però io credo che il trend sia buono, cioè quando uno realizza che una grossissima parte di flussi da tutti i mercati del mondo, stanno arrivando in Europa, perché l'Europa è vista stabile, e in questo senso quello che è successo in Grecia viene visto molto positivamente dai grandi investitori internazionali, perché viene visto come assicurazione sul fatto che non si può derogare da una regola comune europea. Io vedo che siamo tranquilli. Riguardo ai settori, rispetto alla sua domanda di prima, io credo che sia ancora il momento dei titoli industriali e tecnologici. Credo che il lusso, la moda e quelle cose lì continueranno ad andare bene. Lei prima citava i risultati buoni di alcune delle società, non facciamo nomi, ma anche oggi in una giornata leggermente negativa ci sono alcuni titoli che hanno fatto più 2 o più 1, per cui dati molto buoni proprio in quel settore del lusso e della moda. E poi per chi ha i nervi saldi potrà essere una stagione interessante sulle banche, perché è chiaro che il consolidamento prima cioè o poi le fusioni partirà, delle tra popolari, le fusioni poi partiranno tra popolari e non solo. Certamente la legge che il governo ha portato avanti aiuterà. È chiaro che dovremo star molto attenti, chi investirà in questi settori, perché ci saranno giornate difficili, ma il trend sulle banche nel prossimo 6 mesi, un anno e mezzo lo vedo positivo. Per cui titoli del lusso, export vocati, ma anche per lei mondo bancario. L'energia invece, che tra petrolio e alcuni conti, insomma South Stream, ma anche alcuni conti dell'Eni, sembra essere un settore abbastanza in difficoltà. Sì, sono d'accordo. Io sull'energia non investirei nei prossimi mesi. Perché si attende un petrolio che comunque resterà su questi livelli? Ma più che il petrolio c'è questa pressione competitiva in generale delle utility, delle aziende dello shale gas che andranno in America a carte 48, per cui c'è tutto un settore che secondo me è in un momento di consolidamento, e perlomeno la mia visione è questa. Poi se avessi la palla di vetro probabilmente non farei questo mestiere, ma ne farei altri, e per cui credo che starei attento all'energia. Ecco, su questo fronte lei ricordava petrolio e rapporto anche di cambio euro-dollaro, non mi ha detto nulla sui beni rifugio, cioè secondo lei l'oro resterà su questi livelli, nel senso che i flussi di capitale non hanno bisogno di strumenti difensivi in questo momento? Esattamente, nel senso che avendo io personalmente una visione positiva sui mercati in generale, siccome l'oro è classica struttura difensiva, credo che continuerà a essere debole e probabilmente si indebolirà ancora, anche perché questa dimostrazione che è stata data dall'Europa sulla Grecia dissuaderà tanta gente ad avere valute anche come hedge difensive per proteggersi da altri rischi. Allora, su questo no, io ricordo agli ascoltatori che quando Tamburi sbagliò le sue previsioni ce lo disse anche in diretta, questo va bene e glielo riconosciamo. Mi dica una cosa, non perché voglia per forza trovare una cosa che, ma una cosa che potrebbe andare storta, lei se la immagina oppure no? Perché magari anche no. Ma secondo me, per esempio, quando lei mi chiese che settori potevano andare nei primi mesi del 2015, eravamo sotto Natale, io dissi i titoli del risparmio gestito probabilmente sarebbero andati bene perché c'era questo afflusso di capitali, eccetera. Io credo che con quello che la Consob ha detto nei giorni scorsi riguardo alle performance fee, eccetera, eccetera, oggi come oggi potrebbe essere un buon momento per trarre profitto dai grandi utili fatti sul risparmio gestito e magari spostarsi più su titoli industriali di altro tipo. Ecco, lì vedo onestamente un'area forse anche un po' più rischiosa dell'energia, ecco, perché in realtà c'è stata questa grande... Prego. No, prego, ho capito il ragionamento, però io ho 20 secondi a costo di farla passare per renziano, oppure no, non me ne frega nulla. Lei poi, visto che partecipa e mette i soldi in aziende, questo fa poi la Tamburi Associati, questa ripresa voi la vedete o no? Lasciamo stare i dati aggregati, questa l'abbiamo vista anche noi, più 0,7, più 0,8, ma c'è qualche segnale anche più strutturale e più concreto? Assolutamente sì. Le semestrali delle aziende in cui siamo investiti oggi sono da un più 5 a un più 15. Abbiamo visto ieri Amplifon, abbiamo visto altre cose, adesso poi non facciamo noi, ma comunque ecco, la ripresa è forte, ed è forte anche in Italia, per cui la ripresa c'è a livello europeo. L'Italia secondo me in questo momento è meglio dell'Europa. Purtroppo i dati aggregati fanno un medione generale con aziende che devono andare male, devono probabilmente chiudere perché non sono fuori mercato. Per cui la ripresa c'è, non c'è nessun dubbio. Oh, Tamburi Renziano, grazie anche a Giovanni Tamburi in collegamento con noi, amministratore delegato della Tamburi & Partners. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata e di un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà passarlo lavorando. Un ringraziamento come sempre a Mauro Del Conno e Barbara Bianchi per l'assistenza anche questa settimana al programma. Noi ci risentiamo, perché saremo in diretta lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.